signor Bacchisio. Dole! Ma c'è, è uscito. Fammi una cortesia, ma non è il numero di Luca, che mi sono dimenticato il telefono in macchina di Claudio. Cosa vuoi? Il numero di Luca Flip, non ce l'ho, Mari. C'è il numero di Claudio, Tore. Un attimino che prendo il telefono. Qua, buonasera, Scusa, mi sono dimenticato il telefono in macchina, dai. Che ho piazzato l'antennino, VU. Cioè, l'antennino per ascoltare, dai, diciamo, e mi ho lasciato il telefono in macchina. Il numero di Claudio mi serve. Vabbè, ti ho trovato. Un attimino che lo sto cercando. Perché sei in zona, lo chiamo, me lo faccio portare a casa. Perfetto. 339-3-3-3-6-9-1-2-9. Grazie, Tom, molto gentile. Oh, mettati che un'altra volta, e non che non te ne dopo più, Più, più, Tore. Bello. Cioè facciamo una prova, Ci sei la PMR? Provati. Manda. Arriva, mi sembra che sia Luca il PMR, arriva col portatilino qua, prova a vedere. L'ho sentito. Ok, quindi qua arriva col portatilino, lo sto sentendo con l'antenna piccola. Se puoi immaginare. Con l'antenna a base magnetica nella finestra, non con l'antenna in gomma, quella piccolina, capito, arriva benissimo. Diglielo, io non posso risponderle. Adesso mi mando il messaggio, aspetta di passare il 27. Visto che lì dalla mamma, può passare qua un attimino, ti lascio. 7.25, che si va. Chi è lei? Attenzione, signor Bacchisio! Ehi, Lu, ho visto il pacco, tutto a posto, va bene. Te l'hai data una pulita, sì? Sì. Posto. Ho già anche mandato il video. Quel cavo sia un connettore che l'altro con le ispezioni gliel'hai mandati, quindi il resto si arrangia. Certo, vabbè, già lo sa. Mi sto riparando quel pezzo rotto, sto mettendo un'anima in rame all'interno e chi se non si fa sapere. Della 510? Va bene. Preparalo, manco male, se siamo abitati, per carità. Va bene, fallo, dai, già sono qua, intanto io fra 5 minuti vado a portare il cane. Ma rimango in ascolto sul 23, ok? Ok, ciao. Ore, sono Giovanni, buonasera. Buonasera, sto. Ciao, sì. No, ha già chiamato, ma non mi ha riposto nessuno. Ma chi sono entrato? Cosa si intende? Deve essere impegnato, ma chi? Ma già entra per salutare almeno, va. Già entra almeno a salutarci. E beh, cos'è combinato oggi? Sono tutta la mattina che sono dal padre del mio genero, che è Musu. Grande. 69 anni. Allora, malato. C'era un tumore al coso dove vicino al fegato. Giro di della rimbuttata a casa, giro di 2 chili se ne è andato. Si giocano ancora, ragazzi. Purtroppo. Per carità. Ma intanto ce n'è uno, ragazzi. Va bene, certe volte magari ci trascuriamo senza sapere cosa abbiamo, certe volte capita anche così. Vabbè, oggi è arrivato con la sua, purtroppo. per soffrire parecchio è meglio che se ne sia andato così tranquillo e tutto. Infatti stavolta devo fare la veglia. Marino, sentito là? No, non ho sentito nessuno, Gio Marino. Nessuno che nessuno. Tu sei a passeggio, sto. Certo. Tu sei a Giorgio, sto, non so. Sono lui, siamo casalinghi. Boh. Ma dove mi finita là, vediamo Gio Marino. Buonasera. A vedere, sono noi, siamo casalinghi. Boh. Vabbè, dall'avevo passato, dalla gioventù del Bourgeois. No, ma erano qua, erano Luca e Luca, capito? Eravamo sul tetto, dai lui. Dalle tre, erano finiti ancora. E abbiamo smontato tutte le antenne, ho tolto le direttive, Giomari, capito? Quindi, per quello che non si è sentito nessuno ancora. Sì, allora sono stanchi. Allora sono stanchi per quello che stanno riposando adesso. Allora avete finito tutto? Sì, ho fatto pulizia, asciutto, tutto conservato, capito? Tutto pulito, cosa ne fai? Tanto se non ritratti, è utile lasciare i chili. E tra l'altro ne ho tolto anche quella VU, quindi non c'ho manco PMR, capito? Ho asciugato tutto completamente. Adesso domani ne metto un'altra nuova, piccolina però. Ciao Tore, buonasera. Ciao Cla, ti ho sentito. Quindi abbiamo deciso, c'è una bella giornata, ho cominciato a vedere, poi venite ancora, ci siamo fermati un po' a rilassarci, vabbè c'è una cosetta, si è fatto tardi, capite? Infatti mia mamma si è voluto lasciare il burrito 10 minuti, e poi porto il cane, la giornata è finita, KK. Meglio così. Io invece in terreno bevo solo, non bevo di entra, anche sono di funerale gioco. Oggi? Sì, oggi è morto il padre di mio genero. Casino, anche il padre di Mario, poverino, se n'è andato giovane. E cosa vuoi fare, Angelo stesso? Angelo Mattesi, padre di mio genero, è così. Purtroppo, è così, no, grande giamba devi andare. Infatti, fa soffrire e meglio andato, purtroppo. Stanotte mi tocca la grande notte a far la veglia. Anche noi abbiamo fatto, non sono cose belle, ma bisogna farle purtroppo. E dove va? Ho fatto migliore, ho fatto iena e io ho fatto lo stesso. Capito? È così. Vabbè, si tira avanti comunque, la vita continua. E vabbè, Gio Marino. Infatti, la vita continua, purtroppo è così. Prima o poi bisogna andare. Cosa vi fa? Non si può fare niente, per cui vuol dire che ha arrivato la sua toa e così via. Vabbè. Purtroppo. Prima o poi tutti andiamo là. Ma più tardi che mai, vai to. Non so più. Sempre più tardi che mai, purtroppo. Quando subentra la rabbia, sono venuto da chi fa. Un attimo il telefono. Ehi, Gio Marino. Angelo lo stesso. Angelo sempre dolore, ha recuperato. Quindi, purtroppo, è così. Va bene, Torai. Piacere avervi sentito a tutte e due. Salutami a Gio Maria. Quando rientra, io vado a portare il cane. Se no, fate troppo bugio a voi, no. No, non vedo nulla. Ok, dai, se ci siete a dopo, altrimenti ritenete vi salutati. Ciao. Ok, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime. Attenzione signor Battisio! Sta venendo gente, vai, chiudo. Ci vediamo domani, dai, buon proseguimento, sono in casa, saluta Battisio, siete. Ok. Ok Gio Mari, ci sentiamo. Alle prossime. Ciao Gio Mari. Ehi, Gio Mari. Cos'è Gio Mari? Chi è? Ma sei Gio Maria? Che sei che sei tutto strano? Andiamo! Mi ha rito me. Mi ha dato già c'era, mi ha dato sparito. Luca, come stai? Come fai? No, poi c'è incomprensibile, non si capisce nulla. Oh, saturazione forte, sì. Adesso già va bene, però la volta si è abbassato però. Non ho capito nulla, non Mari. Scusate un attimino, che vado a mangiare. Marino, ti faccio un passaggio di là, se mi ascolti. Luca, ascolta, abbastanza bene, Prova tu a chiamare, bene, dai, vediamo un po' se arrivi anche tu bene. Se mi passi qualche cosa, forse ti comprare un burro. Sta tutti sotto a zitto, si opposti. Vabbè, Mari. Ehi, Mari, dimmi, dimmi. Non l'ha inteso, gigante, attenzione, gigante, cambio. Adesso mi ascolti, senza il microfono. Quello signor Bacchi, buonasera. Buonasera, signor Co, io parlavo senza essere inserito il microfono. Ma comportante va via. Ma come ti sentivo, Senza il microfono mi sentivo, è strano. Io qua la stava, scoppiamo tutti il microfono. Bravo, bravo. Bravo. Cata, hanno preso il bisogno che il microfono non era attaccato. Sì, l'aveva attaccato e lui cominciava. Ma mi piace, tu ti andai a baranzi. Sicuro, se non si tiene di più. Cata, muove, signor Bacchi. Ui, ui, ui. La vecchia di Calogna. E non poco, no. Marino, come mi ascolti adesso? Benissimo, sono d'accordo, benissimo. Solo se io sento il microfono per il tuo speciale, come devi passare a casa? Tu hai frusciato, gigante. Non mi ascolti? Sì, ma l'ho frusciato, ha frusciato. Perché c'erano due radio accese? Assolutamente. Come mi ascolti più bene, con questo o con l'altro intec? Con questo c'è quasi non sento. Come l'altro, vicino all'altro. Sì, adesso mi faccio, spengo uno per arrivare. Vedi un po' adesso se è cambiato. Il segnale che c'è d'altro. Il segnale più basso, questo è la Roplin. Questa è la radio ultima comunque, dai. Come radio è bassa? No, no, va bene la radio, va bene, c'è proprio bene. Il segnale scende un po'. Tra un momento un giocattolino col cambio, va lì. La c'è la differenza, va tanto, dai. Io sono a tavola, se va benissimo, va bene. Se non va bene, se non va bene, peggio per voi. Vabbè, avanti. Ehi, voglia, signor Bacchi, andiamo via, andiamo. Ehi, vabbè, così. Oh, signor Marino. Ehi, stavo diciamo la grossa rete, in casa puoi lavorare. A casa sua, infatti dopo verso le 9 devo andare a casa sua a fare la villa. Ma dove andrà? Nella via, quasi nella via dove c'è il negozio delle bombole, dove c'è la tabacchina una volta, lì vicino. Allora, via Vespucci, al numero 15. Come entri nella via, la via Kenny, come entri te lo trovi di fronte. Ma basta coso, ma te si chiama, Pantimanno, Ettore. Ora non mi metto il guglielmo. Di fronte a lui sta. Stai un po', scusate. Ah, sei la porta piano. Ma perché non si muove? Ah, devo comare, si è avvicinare la nostra. E buh, Pasqua si chiama. Pasqua Antonio Gabbini, Antonio Giuseppe. Pasqua. Ah, Pasqua. Ehi, c'è il baffetto. Ho già capito il baffetto. Non basta, ma perché non mi ha pensato? Ma pensavo che stava io Non so come si chiama, ma non ricordo come si chiama di cognome. No, abita di fronte a Torre Rubus, di fronte. Non si può dire, sta a porta di Torre, di fronte ci abitava lui. Quasi vicino alla bile proprio. Infatti non stava più urinando. Da ieri gli ha iniziato i dolori ai reni. Ieri mattina dice che ha sputato sangue e ha detto boh. E stamattina alle 4 se ne è andato. Purtroppo non ce l'ha fatta, era preso proprio pieno di tumore, gli hanno messo il drenaggio e nulla l'ha ce l'ha fatta più, poi non era più niente, né manco. Qualche cosa così, e boh, stava sempre sporcando, poi gli hanno tolto questi liquidi e non ce l'ha fatta più. Io volevo andare a prendere medicine, ho detto ora non andavo a prendere medicine, vedo un cogliolo che è un porco. Bene ragazzi, io vi saluto, io ancora buon pomeriggio. Ciao Tone, ciao Marino, ciao che le amici sono all'ascolto, ma chi si ascolta che non lì non vai, pure vai vai, vai Marino. Ok, ciao Bacchi, ci risentiamo. Tanto che sono in cosa. Ci risentiamo domani, Mari. Ciao Bacchisio. E ciao agli altri che sono all'ascolto. Ok, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Fai a tutti. Ciao a tutti. Ciao Mari, a posto. Lascia perdere, per stare bene, non sa cosa devo fare, Mari. Mi curo una fucilata da fronte e vedrai che mi passano tutti i dolori. Non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco che è la vita, io non capisco non da colonizzare. Però fa una, insomma, cambiare almeno la cosa positiva. Ha fatto alcune situazioni in cui volte le muscoli e se la fare cambiare una cosa positiva. Altro non ricordo se avevo fatto forza, se non alza un'altra, oppure muscoli al contrario, capito? Comunque non aveva cambiato, non aveva cambiato. Non aveva cambiato, ma non aveva fatto un'altra cosa. Allora, io gli ho chiamato a Graziano, il dottore. Ho detto, dottore, a me questa cura l'ho finita, 5 giorni, voltare e muscoli. Mi fa, le faccio, ma devo continuare ancora con queste... No, assolutamente ti prescrivo l'impegnativa per fare la visita dall'ortopedico, torna la giudice, se l'ho già fatta, no, rifarla, torna e poi vediamo un po'. Cazzo, dimmi tu, perché dice, no, ti stai imbuttendo di queste pastiglie e quindi no, aspettiamo. Adesso fai questa visita qua, allora domani te la chiamo al gruppo. Cazzo, il gruppo non è rintracciabile. Sono già stanco a stare così, cazzo, non posso andare da nessuna parte, sempre bussato, come mi duole dal bacino tutte e due le gambe, cazzo, dai, non posso, non lo so. Trata la tufa da giudizio, trata la tufa, e vedrai che ti passa. Luis, ciao Giulio, buonasera. Sì, trata la tufa, uia. Pensi cos'è caro fu che fosse prima mio, o giù. Buonasera. Sì, io non mi giudizio, non mi giudizio, che sono 7 mesi così. Fai quanto da giudizio, dai a pedire i battigli, sono tutte le altre cose che non servono. Poi prende la tufa da giudizio e cazzo di me, vai a vedere, fanno quei disegni a dediti, cazzo di me, ma non senza mettere alla capiglia, e vai a vedere, ti basta. Oppure Emanuele, io sono a Cinesina, non so bravo, quindi non è che posso, e ti posso fare dei massaggi, faccio portare un po' di miele caldo, come detto Giulio, la tufa, metto un miele caldo, e ti fai massaggi, sì, una settimana non c'è più tufa. C'era un break, comunque, ciao Giulio, questo con break, avanti, buonasera. Ciao Marino, mi stavo ascoltando, dai, scendo a mangiare, vado a cenare, ci sentiamo, ciao. Manuel, dammi retta, vai a vedere che ti basta. Sì, adesso vediamo, cazzo, ho fatto un po' di motori, ma che nulla. Nulla, non è servito a niente. Dimmi tu cosa cavolo devo fare io. Le pachilli non mi fanno nulla, motori, la giubilata non mi fanno nulla. Ne ho fatto 80 io di lesioni, di puntura, ne ho fatto 80 e non mi hanno fatto nulla. E ho fatto 15 di tuffa e mi è passato un raggio inteso. Allora vediamo, adesso vediamo, domani chiamo questo gruppo qua e vediamo cosa dice, se sono rintracciabili. Non rispondere ne manco. Dimmi tu, andiamo a portare il soccorso e mi faccio ricoverare forse prima. No, te ricoveri già nel cuscino, non è quanto sei bisogno di tu, deve proprio malissa la testa e poco lunga. No, non gruppo, non ti dare fuori nel macco, perché intanto manco devi rispondere, so con cui disegni io devo rispondere al gruppo, non rispondere nel macco. alleluia, per carità. Per carità, dove stiamo andando a finire? Vai Mari. Sono un po' non è il calcio, un buon calcio, un calcio, secondo me. È un calcio, non è un calcio, anch'io, guarda, io c'ho, c'ho due, due mi ha vaccinato, uno visitato, a parte è caduto nella scrivania, c'è caduto nella scrivania, come ti ho visto è caduto nella scrivania, gli ho dato il CD, il dischetto della risonanza, guardato tutto quanto e mi fa sì c'è un indietro del disco qui là, però non è operabile, mi fa di si alza in piedi, si mette con i talloni in su, si mette con le punte in su, ma vai, c'è il nero pagliaccio, ma tu sei un pagliaccio, sì. Certo mi ha ordinato un'altra impegnativa per fare il coso degli aghi delle scorse, ma gatto qua, me ne sono andata, che sennò quando mandate da fanculo. Buonasera, e beh mamma, come stai? Oh, lasciami, glielo stavo dicendo a Marino, cra. Male, si sono potuto gatto qua di tutti, insomma. Cazzo, ho fatto le punture, ho fatto video, ho fatto nulla, mi sembra strano che cazzo non mi passa questa cosa. Non so cosa dirti, fai una vista più approfondita, perché ti sto dicendo che non è cosa da scherzare. Ciao gente che ha fatto le punture nel passato, cazzo io non ho giocato a tessi, anche se le tenevo sui tirinti e l'ho fatto, però non mi ha fatto una cirinti, non mi ha fatto niente, perché cazzo sono peggio di prima, se faccio un passo mi devo sereno, non posso andare a lungo, anche cazzo mi vado nei mari. Ma c'è ragione che devi approfondire, non è che puoi filmare dal primo che arrivi, come ti ha detto Marino. Io gli ho detto, non c'è niente. Però devi continuare, devi andare e cercare di capire che cosa c'è. Se è un'ernia del disco che va operata urgentemente, anche se ti hanno detto che no, non è da operare, o che cosa c'è, perché non è da trascurare, Emanuele. L'ho già detto, non è da trascurare, il dolore alla schiena non è da trascurare. No, non sto trascurando nulla, perché adesso domani mattina chiamo il CUP, anzi mercoledì vado al Ghero, gli presento l'impegnativa al pronto soccorso, gli dico di necessità urgente che non possono stare così. Scusa, ma noi dove hai fatto la vaccinanza? A Batalona. Siamo più di un anno così, tanto facendo visita e controvisita, ogni volta mi fanno fare le impegnati per andare all'ortopedico, cosa devo fare? Tanto ammazzare ai riduttori. Guarda, io non so più cosa dire, Marino. Adesso io domani chiamo al CUP. Il CUP tanto non risponde, che ha detto manda una ciama e non ti risponde nemmeno. Sì, un attimo per controllo. Io faccio attacco al nuovo, se io la giornata faccio la unica. Al nuovo faccio attacco, mi dice, se mi sono risultato, se mi sono capito, Sì, dovrebbe essere Claudio l'apportatore, se massi molto basso rispetto a come ti ho sentito l'ultima volta, non so cosa hai combinato, sei tu qua, Francesco da un camion, va bene Francesco, Santiago 4, Radio 5. Va bene così. Ok, ciao Francesco, a mia finta riconosciuto. Ascolta, sto usando un baracchino con microfono normale a saponetta o un Alan. La modulazione è chiara o è troppo bassa? Perché la casa è sempre la tua, sempre la sua, bella lì, davanti. E allora va bene. Bene Mela, 3 watt e mezzo, va bene. Claudio che c'ha l'orecchio musicale, a te Claudio. Bene Vittorio, 9:20 Radio 5 qua. Non c'è problema, dove sei, a casa o al laboratorio? No, a casa. E vabbè, questa l'antenna non è più adatta per gli 11 metri, però no, già. Accorda qui, accorda là, già va lo stesso. Sì, non ascoltavo anch'io il camionista lì di Portotorres. Adesso stacco questo, ne attacco un altro, poi mi dici se c'è differenza a Cla, ok? E anche per gli altri. Vittorio Giove, QRX. Vai tranquillo Vittorio, per il momento è tutto a posto, 9:20 Radio 5. Bravo Emanuele, hai detto una cosa veramente, mi spiace tantissimo che non riesci a riprenderti, porca miseria, però è un dolore, lo so, allucinante, io ci sono passato e credimi, era un casino, però piano piano sono riuscito a mettermi in sesto, tu non ce la fai, non ho capito perché, vuol dire c'è qualcosa che non sta funzionando. Già devo fare, come ti ha detto a Marino, okra. Per passarmi tutti i dolori mi devo curare una fucilata forte e passa tutto. Ehi, non la prendere così, dai. Cerca di tirarti su moralmente, purtroppo anche i dottori sbagliano, io ti ripeto, non mi sono fermato dal primo, ne ho girato tantissimo e poi sono arrivato all'Alghero all'ospedale Marino, dove fortunatamente ho trovato, allora c'era ancora il padre di Giuseppe, professor Medis, mi ha sistemato, te l'ho detto, mi ha dato quella cura, ho fatto l'agopuntura, ho fatto tutto, però io non ho l'ernia del disco, capito? Io ho l'ultimo anello della colonna vertebrale consumato, quindi quando facevo sforzi si infiammava e vedevo le stelle, tutto piegato, tutto, capito, messo male. E piano piano siamo riusciti a toglierne i piedi. Tu, se questa è statisticamente approvata, ernia del disco, dici devi lavorare, perché chi dice che non è da operare, chi però trovi e ti dice sì, è da operare immediatamente perché è da operare, devi cercare quello che te lo dice, perché se tu ti fermi su uno che ti dice no, non è da operare, continua ad avere questi dolori allucinanti, o Manuè, non i vuoi bene, capito? Devi per forza, secondo me, operarti, anche perché sei in età per poterlo fare, più aspetti e peggio è, capito? Vai Marie. Come con l'altra radio? Sì, Vittorio. Ok, dai, comunque ne approfitto, dai. Ciao Claudio, ciao Vittorio, ciao Marino. Ce la riascoltiamo, dai, tutte le prossime. Adesso verrò un po', claro, comunque già ci sentiamo, dai. Saluto a tutti, vai qua. Ehi, noi abbiamo finito stasera alle 7, quindi torna tutto, sul tetto non c'è rimasto più niente. C'è solo la mappa e una monobanda che adesso quella la toglierò io da solo domani. E basta. E l'affilare che mi serve almeno così per ascoltare, fare qualche passaggio in anclefio, ma niente di che, resto tutto. Non c'è manco PMR o Manuel, hai capito? Tutto a 510 direttive e tutto. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro con i due Luca. Ok. Allora, Vittorio, riprendi tu per salutare a Manuele e poi vai per Marino così. Per me il controllo è buono, è sempre 9.20 la radio 5. No, era per vedere se ho cambiato radio, ma quell'altro era l'ala. Bene mela, sì, no, ne ho 10 io di ernia al disco, 10 è dal record. Sto sempre lavorando. Ho una panca di quelle che mi capotto a testa in giù, ne comprimo e tira campà, perché se no è da opera, più di una, ne ho tre da operare. Dovevano operarmi a Materolbia a dicembre l'anno scorso, invece poi ha avuto problemi di salute mia moglie Laura, l'hanno ricoverata e è saltata l'operazione. Adesso vediamo con questa storia del virus quando potranno prendere mazzetta e scalpello e mettermi in mano. Riprendi com'era lì, vabbè, il nominativo me lo sono dimenticato. E abbiamo contato Marino, ok, salutiamo a Manuele. Ciao Manuele, domani ci sentiamo, là, già ci vediamo di là, ciao, bene, purtroppo non ci sono venuti a riguardo, culture, poi riprende il medico, io dove lavoro io, la metà sono tutte con le disco, perché tutti autisti, il camion, il portale, o uno viaggia, il camion sta proprio in una schiena, non si va a fare, qualcuno ci ha operato, qualcuno l'ha fatto il futuro, non si va a fare, avanti io, salve. Quello è ancora peggio, io ho fatto questi dolori che mi hanno riscontrato, perché stavo molto in macchina, capito? Con la furgonetta, andando, tornando, a volte prendevo il furgone, insomma, mi sono un po' dilavato per quello. Adesso che sono a casa, sono riuscito finalmente a fare la cura e mi è passato. Oddio, passato è una cosa grande, però non ho più quei dolori di prima. Anche oggi ho forzato, facendo questi lavori delle antenne, perché abbiamo sceso roba pesante, però non ne sto risentendo, magari domani mi fa un po' male, però non come prima non ce la facevo manco a stare in piedi, capito? Avanti Vito. Dimmelo, con la schiena ho messo tutta la mattina sistemando prese TV in un appartamento, tutto il giorno inchinato in ginocchio in coso ho bestemmiato più oggi che negli ultimi 20 anni, capito? Perché ne risenti Vittorio, non è mai la stessa cosa, io se mi metto a fare quello che facevo prima guai, assolutamente non posso più fare. Infatti oggi ho chiesto l'aiuto ai due Luca, sono venuti, mi hanno dato una grossa mano, anzi diciamo che hanno fatto quasi tutto loro, io ho aiutato ben poco, però è chiaro che da solo non le puoi più fare certe cose. Adesso pian pianino io mi sistemo alcune cosettine che ho da sistemare su, ma la roba leggera, la roba pesante l'abbiamo ci racconti che ore sono? Ecco, perché le 8:30, 8:25, è un altro passaggio. E poi vado a preparare un po' la cena, vai Marico. Guarda, guarda, io c'è un po' cosa con te. Con una prossima intervento che mi facciamo, una prossima passata. Ma che solito Claudio, come tu io sono sempre al centro storico, è tutto ok. Sempre casotto, c'è il turismo, da ostaggio, sempre casotto, non ho mai già. E conosciamo la polizia o il mare. Non ci sono passati, non ci sono pensi, io per il primo le vado in posto, non stanno, insomma, ammazzati di tutti quanti, a me non mi fa paura. Ok, non ho finito, già fatto, non ho finito, ormai, non ho finito. Da ritorno, Antonio, la prossima, no. Avanti Claudio, permetto di respirare. Ciao Mari, tante cose belle, alle prossime, dai, ci aggiorniamo al telefono, vai Vito. E anch'io ti saluto perché mi ha chiamato lo stesso anche mia moglie, dai. Ciao Vito, grazie per essere entrato, siamo qua, quando vuoi entrare o qua nel 10, non c'è problema, cambio per te, è assoluto finale, poi chiudo, ciao a tutti. Ciao, ciao, no, mi hanno portato un po' i roba per 11 metri e li sto vedendo, quindi ogni tanto mi attacco qualcuno, sia in eccezione o da provare. Io li provo su carico fittizio, ma ho visto mi sentite anche dal carico fittizio. Ciao Marino, ciao Claudio. Ehi, ehi, Vito, ne approfitto. Ho l'820H, Vito, che in UHF, praticamente riceve, trasmette come portante, come tutto, vatt, eccetera, ma non esce di radio. Ho provato qualsiasi tipo di microfono, non esce di radio. E te lo faccio in UHF? Sì, sì, solo in UHF. VHF, vabbè, è stata sempre leggermente sorda quella radio, ma le VHF non mi interessa. Poi VHF esce benissimo, la radio, tutto. Mentre in UHF non va di modulazione, non esce la voce. Sì, c'è qualcosa sul modulatore, per l'FM c'era il Dio saltato. Ma boh, mi stanno chiamando a cena anche qua, dai, ci sentiamo, ciao Claudio, ciao a tutti. Ne parliamo, Vito. Ogni tanto il laboratorio, te a fronte non te ne ho mai dato. Sto dicendo, manca misericordia, me la stessa cosa mi ha detto Franco con Lucia. Va bene, dai, già ci aggiorniamo, ok, grazie dell'info. Ok, ciao, ciao a tutti, buona cena. Ciao, ciao.